Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa, e in regia Roberto. Buonasera Roberto, grazie per il supporto questa sera. Buonasera Annalisa, buonasera ai radioascoltatori. Dunque, cari radioascoltatori, questa sera diamo spazio all'iniziativa di una ragazza italiana qui a Bruxelles, Vitalba Crivello, che è ospite questa sera in studio. Buonasera Vitalba e benvenuta. Buonasera a tutti. Dunque, un'iniziativa appunto da poco lanciata da Vitalba. Recentemente Vitalba ha rilevato il Caffè Blomqvist, che sicuramente molti dei nostri radioascoltatori conosceranno, a San Boniface. Vitalba ha rilevato appunto il caffè con l'idea di farne un caffè letterario. Dunque, un caffè letterario a Bruxelles. Vitalba, qual è la tua idea per il locale? Come questa tua iniziativa si differenzia dagli altri locali, dagli altri caffè che sono presenti in città? Partendo dall'idea che a Bruxelles mancasse un espresso bar, quindi una vera caffetteria, diciamo, all'italiana, quindi fornendo un caffè di un certo tipo, mi piacerebbe raccogliere intorno appunto all'idea del caffè, che è amato dagli italiani ma anche dalla comunità internazionale, che apprezza i buoni chicchi, diciamo. Così l'idea di accompagnare appunto un buon caffè con delle torte, tutto rigorosamente biologico, fatto in casa, e anche fornendo pian pianino, perché appunto si tratta di un'apertura di recente, del buon cibo, con un plus. Il plus è un'offerta, diciamo, un suggerimento letterario. Che si concretizza nella proposta di 150 titoli inizialmente, 150 titoli a disposizione dei clienti per consultazione, appunto durante la degustazione del caffè. Il cliente può sfogliare questi libri, raccogliere idee. Si tratta di titoli comunque da me selezionati in base chiaramente al mio gusto personale e letture anche che mi hanno accompagnato in questi anni. E quindi la domanda subito viene spontanea: se ci puoi fare qualche esempio di le tue letture favorite, qualcosa che ti ha colpito in modo particolare negli ultimi anni, che quindi hai selezionato per i tuoi clienti? Ma in principio, allora, io leggo molto per titoli, diciamo che mi faccio molto colpire dal titolo del libro. Se dividiamo in sezioni le varie, diciamo, i libri sono divisi per lingue, ecco, io sono una purista, leggo in varie lingue. Leggo in inglese, in francese, in italiano e in spagnolo, quindi i titoli raccolti sono prevalentemente di questa letteratura, dunque letteratura italiana, la mia letteratura madre, letteratura inglese, americana, anglofona, e letteratura francese, letteratura spagnola, un po' più divertente, diciamo. Tra i titoli, se raccogliamo questi titoli per filoni, quindi astraendo dal filone linguistico, troviamo soprattutto libri che raccontano la memoria e raccontano il rapporto comunque delle persone con il cibo. Quindi abbiamo anche questo connubio, ritroviamo proprio l'idea alla base del caffè, il connubio cibo e letteratura. Tra i titoli favoriti, non so, adesso ultimamente mi sono imbattuta in un libro molto simpatico che si chiama Il ristorante dell'amore ritrovato. È un libro di una giapponese, si chiama Itogawa, lei chiaramente tradotto in italiano, ho letto in italiano, e racconta proprio l'idea di un ristorante che voglia accogliere persone che insomma abbiano passione per il cibo e alle quali il cibo possa ridare magari un sorriso o un ricordo, diciamo, ecco, sul filone un po' prustiano, se partiamo proprio, come dire, se andiamo alle origini delle mie passioni letterarie. Però libri ne troviamo libri di cucina, troviamo libri divertenti, soprattutto il filone spagnolo, sono libri molto divertenti, quali, non so, Alla ricerca di Gurb, sono titoli un po' che magari, ecco, l'idea è proprio quella di, magari sono titoli strani che la gente non conosce, non si tratta dei grandi romanzi, dei grandi classici, quelli non si trovano nel mio caffè, però il lettore curioso o l'amante del caffè curioso che viene nel mio caffè, prende un buon caffè, un cappuccino, mangia un dolce, mangio l'insalatina, nel frattempo curiosa tra i vari libri sparsi per la caffetteria e troverà dei titoli, insomma, che lo che lo incuriosiranno, come quello che ho citato magari. Quindi il filo conduttore del, diciamo, dell'offerta letteraria presente nel tuo locale è il rapporto delle persone con il cibo. Sì, l'amore, diciamo, l'amore che le persone hanno per il cibo e la soddisfazione che le persone provano mangiando qualcosa, o cioè il caffè è un metodo per, è un modo per avere qualcosa intorno. Quindi il dolcetto dovrebbe far felice la persona che lo sta mangiando. Nella, se non sbaglio, nella presentazione online del tuo locale scrivi del tuo caffè, scrivi che è basato sull'amore per il caffè e il buon cibo. Dai qualche esempio ai nostri radioascoltatori di quello che li può aspettare al Blomqvist in termini di dolci, di specialità appunto che tu stessa prepari. Allora, prendo io l'ora di pranzo, il cliente del Blomqvist può arrivare verso mezzogiorno e trovare delle insalate fatte sul momento, prodotti rigorosamente biologici, e poi proseguire magari con un caffè o al posto dell'insalata mangiare un sandwich, un'ampia scelta. Io vario durante le settimane, mi piace molto diversificare l'offerta. Poi prenderà magari un caffè o un cappuccino e accompagnerà il tutto con dei dolcetti fatti in casa. Tipicamente abbiamo dolci svedesi nella vecchia tradizione del locale, più la nuova specialità della casa, che è il tiramisù di vita, sia in versione tradizionale, mi faccio un po' di autopubblicità, in versione tradizionale, essendo io italiana, insomma il tiramisù risulta abbastanza, diciamo, di semplice preparazione, con una variante settimanale a seconda dell'ispirazione. Per esempio questa settimana c'era versione banana e Nutella, che magari era per i più golosi, settimana scorsa era con le more, e insomma, cioè, poi si trovano anche dolci più classici, come una torta di mele fatta all'ancienne, o come dei biscotti. Insomma, diciamo che l'offerta è molto variabile. Il tiramisù rimane costante, proprio perché magari è un appunto la mia specialità. Poi anche del cheesecake, insomma, bisogna venire per provare, ogni settimana ci sarà qualcosa di nuovo. Assolutamente. Tu, mi tolgo una curiosità, da quanti anni sei qui a Bruxelles? Allora, io mi sono trasferita a Bruxelles per caso nel 2005, e poi per una serie di altre casualità mi sono fermata, e adesso appunto penso che rimarrò ancora un po', almeno per vedere un po' come vanno le nuove attività imprenditoriali. E quindi appunto ti volevo chiedere che cosa ti ha spinto a lasciare il lavoro che avevi prima e a lanciarti in questa nuova avventura. Era questo un sogno che coltivavi da tempo, o come ti è venuta questa idea? Ma il sogno era abbastanza presente soprattutto negli ultimi 5 anni qui a Bruxelles, dove l'offerta comunque ristorazione, caffetteria, cultura è molto, molto ricca, secondo me, dal mio punto di vista, soprattutto a livello internazionale. E poi recentemente una serie di insoddisfazioni comunque legate al lavoro, ma diciamo in concomitanza col rafforzarsi di questa esigenza imprenditoriale, realizzazione di un sogno che fosse comunque legato al cibo e alla letteratura, mi ha spinta a cogliere un'occasione che mi è capitata tra le mani, insomma, nei mesi precedenti, e quindi ho rilevato questo caffè, adesso cercando di farne appunto un caffè letterario. Quindi è stato un percorso per me abbastanza naturale, ma con varie tappe. Parliamo sì soprattutto degli ultimi 5 anni, comunque abbiamo degli studi precedenti, non è stata un'idea che è nata così da un giorno all'altro, è stata una cosa meditata e studiata, si sono fatti insomma vari calcoli e tutto, e poi Bruxelles, secondo me, il tessuto culturale gastronomico ha favorito la realizzazione del sogno adesso. Quindi, come dicevamo all'inizio, un'attività che hai rilevato da poco, che hai lanciato da poco, ma cosa ti sentiresti di dire a chi coltiva un sogno simile al tuo, un'idea simile alla tua, che cosa consiglieresti a chi volesse lanciarsi in un'attività indipendente di questo tipo? Ma sicuramente bisogna perseguire comunque le proprie intenzioni in qualche modo. Ecco, io continuavo a lavorare, diciamo, nella mia vita di tutti i giorni, però continuavo in qualche modo a coltivare il sogno. Magari nel tempo libero mi dedicavo alle attività appunto amate, cioè la lettura e la cucina. E poi, devo dire la verità, bisogna anche cercare l'opportunità in sé, cioè bisogna comunque informarsi, ecco, tenersi aggiornati su quello che offre il tessuto imprenditoriale locale, perché per esempio Bruxelles offre molte possibilità a chi come me voleva intraprendere un'attività del genere, cioè ci sono molti gruppi di sostegno, si raccolgono informazioni, poi magari consiglierei di chiaramente di frequentare il settore. Ah, questo è un aspetto molto interessante. In che senso ci sono gruppi di sostegno? Che cosa vuoi dire? Vuoi dire che le autorità locali, la città o il comune, cioè, ti hanno aiutata? Ci sono persone che appunto aiutano magari giovani imprenditori che si vogliono lanciare in attività di questo tipo? Diciamo che il tessuto imprenditoriale brussellese è abbastanza, secondo me, variato e ricco, perché io, avendo raccolto delle informazioni di base, cioè diciamo avendo raccolto quello che è un minimo di informazione per chi vuole fare imprenditoria, mi sono ritrovata con varie offerte. Per esempio cito la B, che mi ha seguita dall'inizio, la B, l'Agence Bruxelloise pour l'Entreprise, quindi l'agenzia bruxellese per l'impresa, che offre un sostegno a 360 gradi, cioè parliamo di informazioni a livello legale, burocratico, finanziario. Cioè ho trovato, laddove cercavo, chiaramente cercando informazioni, ho trovato grande sostegno, gratuito e molto professionale. Io sono stata appunto accompagnata nelle mie varie ricerche, non so, attraverso brochure, iniziative di vari corsi, per quanto possibile gratuiti, quindi anche per chi volesse, insomma, veramente raccogliere informazioni per settore, basta rivolgersi ad una di queste agenzie. Io ricordo di essermi imbattuta nella B attraverso il sito del comune di Saint-Gilles, quindi comunque si trova anche un interlink molto facilmente, cioè tra le varie start-up, per poi andare nello specifico. Ecco, stiamo parlando di partire dal generale ad arrivare, non so, agli aiuti finanziari europei. Io avevo un vantaggio, lavoravo nel settore europeo, conoscevo i finanziamenti europei, diciamo sono partita, ognuno deve cercare il proprio punto di partenza, però il tessuto brussellese aiuta e favorisce la raccolta di informazioni per chi volesse. Poi ribadisco, secondo me frequentare il settore di interesse è importante, cioè analizzare il mercato, osservare, quello è quello che mi ha portata là dove adesso appunto alla realizzazione del sogno, ribadisco. No, è interessante sentire che quindi da parte delle autorità locali, dal comune, cioè, quindi ci sono quindi modi per assistere, diciamo, giovani imprenditori che si vogliono lanciare in attività di questo tipo. Quindi questo è sicuramente un dato molto interessante. Vitalba, siamo quasi in chiusura di questa prima parte di trasmissione. Una domanda, un paio di domande ancora, quindi un cliente quindi che ti venisse a visitare nei prossimi giorni, in termini di specialità, che cosa può trovare? Consiglierei di provare il caffè espresso, che è appunto il core business, però consiglierei anche di accompagnarlo con un buon tiramisù. In alternativa, in preferenza di salato, potrebbe lanciarsi su uno dei vari panini. Ribadisco, tutto è fatto rigorosamente con prodotti organici, l'idea è appunto di mantenere un gusto tradizionale che possa comunque mantenere il cliente in un'atmosfera relax e ritrovare, come dire, il vero gusto del cibo. Il tutto ovviamente accompagnato da una lettura, credo che non manchino, sulla base di quello che hai detto, 150 suggerimenti. Vitalba, vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori innanzitutto l'indirizzo del tuo caffè, dove ti possono trovare e gli orari di apertura? Allora, il Blomqvist si trova in Place Moliface, esattamente Rue Francart 14, facilmente raggiungibile, quindi di fronte alla chiesa, un bel tendone arancione visibile. Siamo aperti tutti i giorni della settimana, da mercoledì a venerdì, quindi lunedì e martedì troverete chiuso purtroppo, mercoledì, venerdì da mezzogiorno alle 19.30 e il sabato e la domenica da mezzogiorno alle 18. Benissimo, quindi cari radioascoltatori, ovviamente l'invito è andate a trovare Vitalba, godetevi le sue specialità culinarie, una buona lettura. Noi facciamo a Vitalba un grosso in bocca al lupo per questa sua iniziativa, in bocca al lupo e buona fortuna. A presto, e facciamo ora una pausa musicale. cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque, per questa seconda parte di trasmissione faremo il punto sull'attualità sportiva, coprendo una serie di temi, una serie di eventi. Ne parliamo questa sera con il nostro regista Roberto Guidi. Buonasera ancora Roberto. Buonasera Annalisa. E parliamo anche con Maurizio Molinari, giornalista e autore e coordinatore di Onde Corte, come sapete la trasmissione che va in onda dopo Giro di Boa. Buonasera Maurizio. Buonasera. Dunque, iniziamo con il campionato italiano, facendo un po' il punto della situazione. Quali sono le sorprese che si sono avute finora o le delusioni che si sono avute finora? Roberto. Ma guarda Annalisa, questo campionato risulta essere uno dei più interessanti probabilmente degli ultimi anni, perché ci sono una serie di sconvolgimenti in rapporto per esempio a quello che sono stati gli ultimi anni, con una forte prevalenza delle squadre milanesi, prima l'Inter per diversi anni e poi il Milan. Quest'anno il campionato, almeno dopo 9 giornate, parla bianconero sia per quanto riguarda la Juventus, che per la prima volta dopo tanto tempo si ritrova nelle parti molto alte della classifica, ma anche per l'Udinese. L'Udinese, che è un fenomeno ormai da diversi anni, è una società provinciale, ma che ha sempre fatto della ricerca di calciatori anche sconosciuti, provenienti da paesi ai più sconosciuti talvolta, un suo credo, facendo della formazione poi all'interno della squadra e lanciando dei talenti che poi sono stati comprati da altre squadre. Quest'anno si pensava che probabilmente l'Udinese sarebbe un po' calata dal punto di vista delle prestazioni, perché comunque hanno venduto dei pezzi da 90, tra tutti Alexis Sanchez, mentre in realtà la vediamo comunque seconda in classifica ad un solo punto dalla Juventus. Sulla Juventus bisogna dire che sta pesando in maniera positiva l'effetto Conte, quindi il nuovo allenatore Antonio Conte, che è un vero juventino, ha giocato per diversi anni nella Juventus e sta portando, insieme al nuovo stadio che la Juventus ha inaugurato quest'anno, che è il primo stadio italiano di proprietà di una società, sta portando un'aria nuova e un forte entusiasmo sia tra giocatori che tra naturalmente i tantissimi tifosi che seguono in Italia e fuori dall'Italia la vecchia signora. Per quanto riguarda le sorprese, ho già citato l'Udinese, poi Maurizio sicuramente converrà con me che tra le sorprese più importanti ci sono due squadre assolutamente provinciali, quali il Catania e il Siena, che sono due realtà molto piccole. Il Catania allenato da Vincenzo Montella, un eroe della Roma, un attaccante che ha fatto la storia del campionato italiano e che in questa sua avventura a Catania sta effettivamente facendo sognare il Cipa, il Massimino. Cosa ne dici Maurizio? Ma sicuramente il Catania sta facendo un campionato di alto livello, sottolineerei però anche l'Atalanta, che è partita con 6 punti di penalizzazione. A un certo punto, se non avesse avuto questi 6 punti, sarebbe ritrovata prima in classifica. E sottolineerei, con un allenatore giovane, insomma abbastanza giovane come Colantuono, sottolineerei inoltre la sorpresa negativa per il momento, che è l'Inter. L'Inter che è in bassa classifica, siamo ancora all'inizio del campionato, però insomma, nonostante abbia cambiato due allenatori, abbia esonerato Gasperini e abbia preso Ranieri, per ora la cura Ranieri non sta funzionando e l'Inter è decisamente la sorpresa più negativa di questo inizio di campionato. Sottolineerei anche che questo è un campionato per ora abbastanza strano. Siamo all'inizio, è presto per dirlo, però ricorda un po', potrebbe essere uno di quei campionati dove a vincere alla fine sarà magari una sorpresa, come appunto può essere l'Udinese, come può essere il Napoli, come è stato, come è successo per il Verona di Bagnoli. Adesso ovviamente potrò essere smentito fra 2 giornate, fra 3 giornate o proprio alla fine del campionato, però sicuramente non c'è ancora una forza che sembra in grado di, come si dice, ammazzare il campionato. Per quanto riguarda la Juve, io ricorderei che non per tarpare le ali a Conte o tarpare le ali, diciamo, ai tifosi juventini, però ricorderei che la Juve aveva iniziato abbastanza bene la stagione scorsa anche con Del Neri, aveva iniziato bene con Ferrara 2 stagioni fa, Il problema della Juve è sempre stato poi il mantenere il ritmo iniziale. Diciamo che quest'anno con Conte, per quanto riguarda la Juve, si sta vedendo anche un gioco, si sta vedendo un progetto di squadra che probabilmente con Del Neri no, si vedeva poco. Ultima cosa, il Milan è partito un po' in sordina, adesso sembra si stia riprendendo. Certo, gli infortuni gravissimi, diciamo le situazioni gravi di Gattuso e di Cassano non aiutano. Ne parleremo tra poco, Maurizio, ma prima appunto di passare al caso Cassano, vorrei chiedervi come si stanno comportando le squadre italiane nelle competizioni europee. Ma vedi Annalisa, per quanto riguarda l'Europa la situazione per adesso è abbastanza buona, direi. Il Milan è qualificato per il secondo turno di Champions League in un girone in cui oltre al Milan e al Barcellona c'erano due squadre decisamente più deboli, quindi diciamo che il Milan ha avuto un buon sorteggio. L'Inter, che delude in campionato, per ora sta, se non altro dal punto di vista dei punti, racimolando molto di più in Europa, in Champions League, e sicuramente per i tifosi napoletani e non solo, è proprio il Napoli che sta facendo vivere probabilmente le emozioni più forti, perché il ritorno del Napoli in Coppa Campioni, ora Champions League, in un girone di ferro in cui ci sono Bayern Monaco, Manchester City e Villarreal, si sta difendendo con le unghie e con i denti per agguantare il secondo posto in classifica che permetterebbe il passaggio del turno. Questo in Champions League, mentre in Europa League sono due le squadre italiane ancora presenti, sono l'Udinese, di cui abbiamo parlato prima, che brilla sia in Italia che in Europa, e la Lazio, che invece, mentre sta anche lei brillando in campionato, è seconda ad un punto dalla Juve, a pari punti con l'Udinese, ha sofferto in queste prime giornate di Europa League, ma ancora le sue chance di qualificazione sono abbastanza aperte. Lazio e Udinese stanno giocando in questo momento, mentre noi siamo in onda. Ecco Roberto, a proposito di Napoli e Lazio, volevo sentire un po' cosa ne penso, perché il Napoli sembra che stia risentendo un po' in campionato dello sforzo che deve, insomma, profuso in Champions League, quindi sta rendendo un rendimento un po' altalenante in campionato, mentre la Lazio, con due acquisti fondamentali come quello di Klose e quello di Sissé, sembra che l'organico, direi, nonostante le polemiche di inizio stagione, si sia parecchio rafforzato. Ma hai perfettamente ragione, Maurizio. Bisogna pensare che naturalmente Mazzarri, nel suo operare a Napoli per riportare l'entusiasmo insieme a De Laurentiis, ha comunque dichiarato più volte che la Champions League interessa di più rispetto al campionato stesso, quindi quello che sta succedendo al Napoli nel campionato è che certi punti persi con le piccole per favorire un turnover che permettesse ai suoi campioni di riposare per la Champions League, lo ha pagato, nel senso che il Napoli probabilmente non ha una serie di seconde linee che sono all'altezza dei giocatori di prima fascia, quali Lavezzi, Cavani, Hamsik. Per quanto riguarda la Lazio, invece, è una squadra che comunque dà del filo da torcere un po' a tutti. Effettivamente gli acquisti, soprattutto Klose, si sta mostrando il campione che ha sempre mostrato essere, anche nella nazionale tedesca, oltre che nel campionato tedesco, e effettivamente anche lì si vede un gioco molto, molto valido, molto, molto spavaldo, anche se il talento principale della Lazio, che è Hernanes, ancora va ad intermittenza. Ne avevate accennato in precedenza, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal caso Cassano, come appunto i nostri radioascoltatori sanno. Cassano si è sentito male sabato sera in arrivo a Milano dopo la trasferta a Roma. Si parla di presunto attacco ischemico, ovviamente non ci sono conferme di alcun tipo. Roberto, che cosa è successo, che cosa sta succedendo? Ma guarda Annalisa, è stato un caso che ha sconvolto comunque tutti gli sportivi italiani, perché effettivamente, come dicevi, Cassano, scendendo dall'aereo che lo riportava da Roma, ha avuto dei problemi, non riusciva bene a parlare e quindi è stato immediatamente ricoverato a Milano. E il comunicato ufficiale del Milan è quello di Cassano, che ha manifestato una sofferenza cerebrale su base ischemica di un'area cerebrale circoscritta che non ha determinato deficit neurologici persistenti, e la causa sembra che sia ormai divenuto celebre, il PFO, quindi un forame ovale pervio cardiaco interatriale. Diciamo che Cassano ha avuto una piccola ischemia, ha avuto anche fortuna, perché logicamente un ictus ischemico può avere delle conseguenze ben peggiori. Logicamente per il calcio italiano e per la nazionale di Prandelli, direi, è comunque un colpo abbastanza duro, tenendo conto del fatto che anche Giuseppe Rossi, un'altra delle punte più importanti e su cui Prandelli ha costruito l'ossatura dell'attacco della nazionale italiana, che così ben si è qualificata per gli europei, si trova con due giocatori che tutti e due saranno fermi per 4-6 mesi Cassano e 6 mesi Rossi, quindi ci sarà un bel da fare. Per quanto riguarda Cassano, domani sarà operato, l'operazione è abbastanza semplice, viene definita semplice, però logicamente gli facciamo tutti gli in bocca al lupo del caso. Maurizio, hai qualcosa da aggiungere? No, volevo aggiungere che nel Milan c'è stato un altro caso, che è quello di Gattuso, che a quanto pare anche lui ha avuto dei problemi neurologici, ha avuto problemi a un occhio, non riesce più a vedere da un occhio, e anche lui non si sa bene sui tempi di recupero, se riuscirà a recuperare, come riuscirà a recuperare, e niente, è stata una strana coincidenza quella che due calciatori del Milan abbiano accusato problemi, diciamo, atipici per quello che di solito succede a un calciatore. Un calciatore magari si rompe un ginocchio, si ha degli infortuni muscolari, ma due infortuni così sono veramente una brutta coincidenza e una brutta tegola anche per il Milan, insomma. Due giocatori difficili da sostituire. Siamo quasi in chiusura, prima di chiudere Giro di Boa vorrebbe rendere omaggio a Marco Simoncelli, il pilota del motomondiale scomparso lo scorso 24 ottobre a causa di un terribile incidente nel Gran Premio della Malesia. Roberto. Ma sì, è sempre difficile, Annalisa, commentare una notizia del genere. Noi sportivi della domenica che ci eravamo appena entusiasmati per la finale dei mondiali di rugby tra la Nuova Zelanda e la Francia, abbiamo ricevuto questa mazzata, questo colpo durissimo, perché Marco Simoncelli non soltanto era un pilota di grandissimo talento, che era un pilota atipico per il suo modo di guidare, atipico per l'altezza, ma anche per il modo un po' beffardo di affrontare le corse. Era amato da tutti, amato dal pubblico in particolare, e chiaramente questo incidente, che è stato un incidente abbastanza banale ma dalle conseguenze tragiche, ha scosso tutta l'opinione pubblica. Ricordiamo che si trattava di un incidente in cui Simoncelli è scivolato praticamente la sua moto è rientrata con lui sopra ed è stato travolto dalla moto di Edwards. È chiaro che le riflessioni in questo momento, in questo mondo del motomondiale sono tante. Si pensava ad una sospensione, la gara stessa chiaramente in Malesia è stata annullata, però credo che per commemorare Marco Simoncelli siano due le cose più belle che siano state fatte da un lato e che saranno fatte probabilmente questo fine settimana. Quello che è stato fatto è notizia di oggi pomeriggio: l'autodromo di Misano sarà intitolato a Marco Simoncelli, quindi un omaggio della sua terra a questo sfortunato pilota, e poi il padre di Marco Simoncelli, per celebrare diciamo la memoria di suo figlio, ha inoltrato una proposta molto particolare, cioè che a Valencia non ci dovrà essere un minuto di silenzio ma un minuto di casino, perché in questo modo si rievocherebbe di più e in maniera migliore l'anima e il ricordo di questo grande campione scomparso. Le sue parole dicono: non vorrei il classico momento di raccoglimento, preferisco tutte le moto assieme in pista a far rombare i motori, fantastico, tanto affetto attorno a noi ci fa stare meglio. Queste sono le sue dichiarazioni, e sicuramente l'affetto è quello anche di noi, e penso sicuramente dei radioascoltatori di Radio Alma, verso un ragazzo così bravo e così sfortunato. Siamo purtroppo in chiusura, vorrei ringraziare Roberto Guidi questa sera con noi in regia e Maurizio Molinari, curatore e autore di Onde Corte, per il loro contributo e commento agli eventi sportivi di questi ultimi giorni. Grazie e cari radioascoltatori, ci risentiamo alla settimana prossima. Buona serata.